Buongiorno, bentornati negli studi di Radio Città Fujiko. Oggi sono con un docente, nonché uno scrittore di romanzi fantasy. Ecco a voi Giovanni De Feo. Buongiorno, salve. Per parlare di un corso di scrittura creativa chiamato Infinite Storie. Citando un po' la storia infinita, ti chiedo subito quindi in che modo queste infinite storie vanno ad essere sbloccate, no? Qual è l'obiettivo di questo corso? Sbloccare le infinite storie che ci sono dentro di ognuno di noi, in che modo? Allora, guarda, non è un corso di scrittura creativa normale, in realtà è una cosa un pochino diversa, nel senso che quello che faremo è di fatto lavorare sulla capacità creatrice, quindi utilizzeremo la scrittura come mezzo, come ponte, per riuscire a sbloccare la creatività. In concreto utilizzeremo delle tecniche di scrittura automatica e delle tecniche di improvvisazione di racconto orale, perché sono stato anche uno storytelling, raccontavo storie in piazza, per riuscire a entrare più in dettaglio nella propria capacità di immaginare. Quindi useremo la storia infinita come una specie di mappa, letteralmente, perché poi useremo la mappa del romanzo. Il romanzo è un po' più complesso, è una specie di fatto di percorso iniziatico di Bastian che entra nel mondo di fantasia con la sua capacità creativa, e poi nella seconda parte di fatto rischia di perdersi e diventare lui stesso una serie di immagini di come riesce a immaginarsi. Il corso farà praticamente questo: utilizzeremo soprattutto degli esercizi come lo sgottato, la capacità di improvvisare con la parola senza giudicare quello che facciamo. Da un certo punto di vista aiuterà moltissimo a sbloccare a chi vuole scrivere, e quello in questo senso è un buon corso per chi vuole scrivere, ma non cercheremo di affinare capacità pratiche come scrivere un racconto, scrivere un romanzo. Ci occuperemo invece proprio della capacità di sbloccarsi come creatori, quindi fatto un corso del genere potrebbe funzionare bene anche chi gli piace disegnare, ha un'affinità con la musica. Nel concreto, tanto per fare un esempio, utilizzeremo alcuni prompt che vengono dalla storia infinita stessa per immaginare dei luoghi mentali, dei topos, per quello nel suo latino parlo di teatro della mente, perché letteralmente si creano degli spazi mentali e all'interno di questi spazi si improvvisa insieme. L'insieme è fondamentale, perché è ovviamente un percorso che non si fa da soli, sia perché c'è l'insegnante, ci sono io, sono un po' la guida in questo mondo fantastico, un mondo interiore, e allo stesso tempo ci sono gli altri. Che cosa fanno? Ci danno lo stesso di input, cioè noi improvvisiamo, con un sacco di improvvisazione teatrale, però lo faremo soprattutto per iscritto, oralmente. Improvviseremo anche proprio raccontandoci, raccontando storie. Questo è più o meno il percorso. Riassumendo, Infinite Storie è un corso per sbloccare la creatività, riuscire a immaginare in maniera più chiara, più netta, attraverso la parola, sia per la parola scritta che la parola parlata, che il racconto orale. Siccome noi vogliamo perderci unicamente nelle storie che viviamo nella nostra fantasia, non vogliamo perderci queste lezioni. Se ci puoi dire come e quando frequentarle, anche so che c'è un open day. Allora sì, il nostro open day sarà mercoledì 8 ottobre alle ore 19 allo spazio Atlas in via 100-300, nella zona dell'Accademia di Belle Arti, quindi proprio nel centro della zona università. Quella sarà la lezione gratuita in cui scriveremo il corso, faremo tutto quello che ho raccontato, lo vedremo in prima persona, poi dopodiché avremo due trimestralità, abbiamo la prima parte del viaggio di Bastian, quello in fantasia, poi la seconda parte che dura altri 6 mesi, dove invece facciamo il movimento opposto, dalla fantasia verso la concretezza, verso la realtà. Se vuoi ricordare ai nostri radioascoltatori dove poter prendere informazioni, poter acquistare la presenza alle lezioni? Questo corso è fatto in collaborazione con la Sfera Invisibile, quindi trovate di fatto tutte le informazioni alla Sfera Invisibile nel sito www.sferainvisibile.it. Potete scrivere direttamente a info@sferainvisibile.it o chiamare il 379-252-7131 per chiedere altre informazioni. Grazie tantissimo Giovanni, è stato un piacere. Grazie a voi.